Euroreportage. L'Europa dopo le elezioni, di Sergio Nava. Quale Europa dopo le elezioni europee? Al di là della partita apertasi sulle nomine nelle prossime istituzioni, l'Unione Europea ha compreso a fondo le ragioni del voto euroscettico, atteso, ma non per questo meno traumatico? In questo reportage da Bruxelles, con interviste realizzate nei giorni immediatamente successivi al voto, Radio 24 vi porta nel cuore delle istituzioni comunitarie. Proveremo a capire insieme quale futuro ci sarà per un'Unione che sembra non piacere più, così com'è, ai suoi cittadini. Iniziamo dunque questo percorso con l'analisi di Enrico Brivio, giornalista a lungo corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore. Senza dubbio uno shock in qualche misura annunciato, perché si sapeva che alcune forze stavano raccogliendo crescenti consensi, così come le politiche di austerità dell'Europa e la profonda crisi economica che c'era stata negli ultimi anni, si sapeva avrebbe lasciato un segno anche nel voto. Alla fine però appunto ci si trova una prima assoluta con partiti euroscettici che arrivano attorno al 25%, cioè un quarto del Parlamento europeo sarà rappresentato da queste forze, che sono in realtà molto anche eterogenee, perché si va appunto dal Movimento 5 Stelle agli indipendentisti di Farage, dai conservatori britannici agli ungheresi dell'estrema destra, a Marine Le Pen, primo partito in Francia del Front National. E forse proprio il fatto che siano destinati a rimanere in qualche misura frammentati, forse diminuisce l'impatto. Secondo te questo messaggio così chiaro da parte dei cittadini lo si è compreso qui a Bruxelles, lo si è compreso a livello di istituzioni? Perché poi chiaramente dal giorno dopo si è ricominciato a parlare di nomine, di posizioni da dividere tra paesi, tra famiglie politiche, insomma è ripresa un po' la macchina istituzionale classica. Lo shock è arrivato in quella che viene definita un po' la bolla brussellese? Ma io credo di sì, che rimanga per certi versi una bolla comunitaria con delle procedure piuttosto complicate e non sempre agevoli da capire, però si tratta pur sempre di un Parlamento che rappresenta politici di 28 paesi che parlano 25 lingue, insomma una realtà molto composita che inevitabilmente deve passare attraverso le procedure laboriose. È vero che questo messaggio penso sia stato recepito almeno in parte da molti di questi politici, perché c'è la sensazione che sia un po', insomma, un'ultima chance che gli europei hanno dato a questo Europarlamento di cercare di dare una scossa anche all'economia europea e di farsi sentire di più, essere più presente sui territori europei, altrimenti l'ondata euroscettica è chiaro potrebbe crescere ulteriormente ed avere un effetto paralizzante su tutta l'Europa. A cicli regolari la frase di rito è l'Europa di fronte a un bivio, di fronte a ogni crisi, si usa molto questa espressione, la si è usata molto anche negli ultimi anni con la Costituzione europea e con svariate altre crisi o difficoltà, non ultima la crisi economica. Forse però mai come stavolta l'Europa è a un bivio. Sì, c'era questa metafora dell'Europa come la bicicletta, dicevano Jacques Delors, anche Prodi riprendeva questa metafora, cioè o si pedala in avanti altrimenti si cade, insomma, ecco, non si può stare fermi, e qui c'è questa necessità. È chiaro che a questo punto veramente bisogna dare delle risposte un pochino più efficaci, un pochino più penetranti, anche se anche lì non è l'Europarlamento da solo che potrà dare queste risposte, ma dipende anche da una certa maggiore efficacia e incisività del Consiglio europeo, cioè di quell'organo che è formato da tutti i rappresentanti dei governi. Ci spostiamo ora a Place du Congrès, nel centro di Bruxelles, per incontrare il direttore di uno dei più autorevoli istituti specializzati in politiche comunitarie. Dove va questa Europa post elezioni e quale Europa esce dal voto? Abbiamo chiesto a Daniel Gross, direttore del Centro per gli Studi Politici Europei. È un'Europa che non sa bene quello che vuole, che non sa bene quale futuro avrà, ma sa anche, nella maggioranza almeno, di essere indispensabile. Che messaggio secondo lei hanno voluto mandare gli elettori con questa onda euroscettica che ha colpito soprattutto in Francia e in Gran Bretagna? È un messaggio contro l'Europa o un messaggio più interno ai rispettivi leader, cioè a François Hollande e a David Cameron? Secondo me è un messaggio soprattutto ai loro leaders e al loro sistema politico. Non sono contenti di come vanno le cose a casa, non sono contenti di come funziona la democrazia a casa. Prendiamo l'Inghilterra. Lì c'è un sentimento molto diffuso che il consenso per l'Unione Europea sia stato rubato. Il Parlamento inglese ha dato il suo consenso a tutti i trattati, a tutte le decisioni europee, in una forma normale, quella della democrazia inglese. Per cui se chi dice l'Europa non ci ha chiesto il nostro consenso, in Inghilterra dice praticamente la nostra forma di democrazia non funziona più. E in Francia si vede che c'è un sentimento molto diffuso che la situazione socio-economica è molto grave, ma che questo sia la colpa degli altri, dei politici o dell'Europa, qualunque altra cosa, ma non i francesi stessi. E questo naturalmente è un fenomeno molto difficile da vincere. E quanto invece però c'è stato di messaggio contro l'Europa, di una voglia di meno Unione Europea? C'è stato un messaggio di noi vogliamo questa Europa e tutta questa forma di democrazia molto complessa tra livello nazionale ed europeo, ma non c'è nessuno che abbia proposto un'alternativa chiara. Il vero confronto democratico vive di una contrapposizione netta tra una posizione e l'altra, destra e sinistra. Ma lì c'è solamente siamo contro. E allora cosa volete? Vogliamo qualcosa di meglio. Eh sì, ma che cosa? Non si sa. Si dice, ed è vero, che l'Europa avanza sempre con le crisi. La crisi porta più integrazione, porta più passi avanti. Stavolta sarà così. C'è il pericolo di crisi nazionali, ma non di una crisi europea. La crisi dell'euro era una vera crisi europea, di una costruzione europea che non ha funzionato. L'abbiamo salvata, l'abbiamo rimessa in moto anche con l'unione bancaria, per cui io direi da questo lato l'Unione Europea ha fatto quello che poteva per rimettere in sesto il sistema europeo. Ma il sistema europeo può funzionare solamente se funziona a livello degli Stati membri. Se lì le economie funzionano, se c'è lavoro, se c'è occupazione. Ed è a questo livello che le cose non funzionano, per cui il grande pericolo non è una crisi europea, è una crisi, dei sistemi sociali, economici a livello dei grandi stati membri. Un'ultima cosa sull'Italia. Il PD diventa praticamente una forza fondamentale all'interno del gruppo socialista all'Europarlamento. Contemporaneamente l'Italia sta per prendere le redini del semestre presidenza dell'Unione Europea. È difficile fare previsioni, però secondo lei quanto a questo punto diventa fondamentale il ruolo del PD italiano all'interno del Parlamento e anche all'interno chiaramente dell'Europa? È chiaro che il PD italiano avrà un ruolo molto più importante nel prossimo Parlamento europeo ed è chiaro che anche a questo livello Renzi avrà un peso maggiore, molto maggiore. E la ragione è semplice, secondo me. Lui ha osato prendere delle posizioni tutto sommato pro-europee in una maniera molto chiara e questo paga. Paga anche nei paesi che si davano già per ostaciti. Molti pensavano prima di queste elezioni l'Italia, come dire, è persa. Ma si vede se un governo, se un capo di Stato parla chiaramente dell'Europa, parlando sia dei suoi difetti che dei suoi vantaggi, può raccogliere consensi. Dopo l'analisi giornalistica e politica, non possiamo non andare al cuore del problema, i soldi, la politica economica. Follow the money, usano dire gli investigatori nelle indagini più complicate. E nella crisi di consensi verso l'Europa c'è un aspetto fortemente economico, nel quale si rispecchia la crisi finanziaria e occupazionale che ha messo in seria difficoltà milioni di cittadini. Seguiamo i soldi e andiamo dunque a capire quali potrebbero essere i cambi, se ci saranno, nelle politiche economiche europee da qui al 2019. Lo facciamo insieme a Zsolt Darvas, Senior Fellow presso Bruegel, centro studi di Bruxelles specializzato proprio negli studi economici. I don't think there will be any major impact. Non penso ci saranno grossi impatti in politica economica. economica dovuti a queste elezioni, ci spiega Darvash, in primo luogo perché le due principali famiglie politiche, popolari e socialisti, continuano ad avere una maggioranza al Parlamento europeo, e in secondo luogo perché l'Europa ha varato negli ultimi anni così tanti pacchetti per fronteggiare la crisi che non penso ci sia una grande voglia di modificare tutte queste intese. Ciò che può cambiare è la retorica domestica in alcuni paesi, per esempio in Francia con l'ascesa del Front National o in Grecia con l'avanzata di Siriza. In questi paesi i partiti di governo, minacciati, potrebbero dimostrarsi più aperti alle idee portate avanti dagli schieramenti di estrema destra o sinistra. In particolare, dice Darvash, l'avversione verso le politiche di austerità potrebbe portare alcuni esecutivi a porre maggiormente l'accento su crescita e occupazione, ma non penso avranno molti strumenti per cambiare radicalmente il corso delle politiche economiche comunitarie. Per questo penso non vedremo grandi modifiche. Non pensa però, gli chiediamo, che la presidenza italiana da luglio proverà o potrà provare a spostare il baricentro verso politiche meno tese all'austerità e più protese verso l'occupazione? Now, as I heard from the news, Prime Minister Renzi... Matteo Renzi ha detto di voler modificare alcune delle regole fiscali dell'Eurozona, dice Zsolt Darvas, ma a mio parere le possibilità che possa farcela sono molto basse. Tutte queste regole sono contenute nei trattati, che dovrebbero venire rinegoziati, il che è altamente improbabile, considerato che l'economia in paesi come la Germania è ancora in salute. Quindi non penso che ci sia una vera possibilità di rinegoziazione delle attuali regole fiscali. Ovviamente questo porta a rischio di una maggiore sfiducia dei cittadini verso l'Europa, ma la popolarità dell'Unione Europea è caduta soprattutto nei paesi a maggiore tasso di disoccupazione. La gente finisce quindi con l'associare l'Europa con la disoccupazione e questo può rinfocolare l'antieuropeismo. La mia paura, conclude Darvas, è che non ci saranno sostanziali cambiamenti nelle politiche economiche, il che potrebbe mantenere alto il livello di disoccupazione, portando quindi a instabilità politiche future e di conseguenza a possibili ulteriori crisi. Il rischio esiste. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.